E hanno vinto Upstart, hanno vinto la competizione italiana di Upstart, hanno creato un'applicazione che si chiama Cool Travel, dico bene? Sì. Cavone. Chi è Cavone? Eccomi qua. Oh, ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Upstraveling, quindi Cool Travel, è un'applicazione che ha vinto sia la parte italiana che... Abbiamo vinto, siamo classificati primi nella competizione italiana dell'Upstart, quindi siamo approdati alla fase finale, competizione europea, e ci siamo classificati secondi. Una notizia di qualche giorno fa, è stato bellissimo, un'esperienza unica. Siete soddisfatti? Sì, sono contento di essere arrivato due, no? Come si dice? Arrivato due, beh, primi sarebbe stato sin troppo bello. Allora, sentiamo la scheda che racconta un po' chi siete e cosa fate. Finora hanno complessivamente vinto 50.000 euro. Loro sono quattro studenti del Politecnico di Milano. Su YouTube li potete vedere in giacca e cravatta che spiegano il business plan di Cool Traveling. Grazie a questa applicazione hanno vinto Upstart, il concorso di Vodafone, e sono arrivati terzi classificati nella competizione europea. La scelta, forse non casualmente, raccontano, prese forma un uggioso giorno di novembre nella caotica stazione di Cadorna, dove si trovavano a transitare al ritorno dalla sede del Politecnico di Milano Bovisa. In quella cornice di tipico caos milanese, aggravata a causa dell'ennesimo sciopero dei mezzi di trasporto, sembrò loro di grande utilità poter portare la tecnologia il più possibile vicino alle persone in viaggio. Allora, avete capito bene, sono 50.000 euro. Ebbene no? Sì. Ebbene, ebbene tutti sì. Contenti? Non sono in giacca e cravatta come nel video di YouTube, che in cui sembrano anche fin troppo un po' stirati, pettinati. Qua sono belli contenti. Sì, sì, sì. Ma avete già ricevuto qualcosa? O? Ma sì, qualche proposta sia all'interno dell'università che anche da altre aziende che collaborano con Vodafone ci è arrivata, proposte di sviluppare altre applicazioni. Ma il tempo, come si sa, non è tantissimo. Adesso contiamo. No, io pensavo i soldi, scusate. Ah, dei cioè, soldi. I soldi ci stiamo pensando. Beh, visti non li abbiamo ancora visti, perché comunque un po' di tempo. Stanno parlando di idee così tu subito sui soldi. Vabbè, cioè nel senso sono tante innovazioni, sì, idee, vabbè, ma infatti sono qui per parlare di noi, sono qui perché hanno preso 50.000 euro, lo ridico un'altra volta. E non è facile, perché noi avevamo chiesto inizialmente finanziamenti in vario modo, ma non è mai stato così semplice avere contatti e persone che investissero su dei giovani studenti e non con grande possibilità.